Effetto Mondo. And that more states will soon be in a position to gradually and safely reopen. That's very exciting. It was very exciting even today watching and seeing what's happening, and people are getting ready and they're all excited. Eccoci qua, ciao Giulia, buongiorno Giulia Chivelli. Ciao Alessio. Abbiamo sentito il nostro Trump quotidiano. Sì. Sì, l'enthusiast in chief, un entusiasta sicuramente, dice che è molto contento di vedere gli stati che si stanno muovendo già verso la fine del lockdown, che ne seguiranno altri. Il riferimento è in particolare alla Georgia, dove il governatore, che è un repubblicano, Brian Kemp, ha deciso proprio di accelerare questa fine del lockdown, addirittura, e questo Trump ha mostrato persino qualche dubbio, ha deciso anche di riaprire i parrucchieri e i barbieri, che sappiamo sono tra gli esercizi commerciali, le attività commerciali. Esatto. Se vuoi però sentiamo subito anche Andrew Cuomo, che sappiamo è il governatore dello stato di New York, che invece ha indirettamente risposto a Donald Trump nella consueta conferenza stampa dicendo: ma noi non ci pensiamo proprio a dare una data per la fine del lockdown. I get the pressure, but we can't make a bad decision. Frankly, this is no time to act stupidly. Period. I don't know how else to say it. Please translation, perché noi ci divertiamo a farvi ascoltare, le voci vere, però ce le diventa tutte. Capisco che tutte le persone che devono prendere delle decisioni, quindi lui stesso e naturalmente il presidente Trump, ha delle pressioni da parte della comunità economica, ha delle pressioni diciamo politiche, nel senso che ha appunto un ruolo politico, però io non voglio fare niente di stupido, punto, period, e non so come altro dirlo, quindi continua un po' questo braccio di ferro, ma in realtà ma dai giornali americani... Giulia, l'America è uno stato federale, però chi è che prende le decisioni per esempio sul lockdown? Credo il governo federale, però. No, si tratta in realtà di guidelines, quindi Trump è molto infastidito col fatto che queste linee guida non vengano poi, perché possono non farlo, non vengano poi ascoltate da alcuni governatori, ma è infastidito sia che gli ubbidiscano sia che mostrino eccesso di zelo come ha fatto il governatore della Georgia. Quindi Trump vorrebbe, come del resto Cuomo glielo ha già spiegato una volta, lei non è il tu, perché in americano non esiste lei, tu non sei il re degli Stati Uniti, tu sei il presidente, quindi io continuo a decidere sulla base di quello che sta succedendo nello stato di New York. Però hai fatto giustamente il paragone un po' anche con altre situazioni federaliste, diciamo, naturalmente anche l'Italia o la Germania. Dagli Stati Uniti ti segnalo altre due cose, perché non è poi così, insomma, non dobbiamo pensare che siamo l'unico paese dove magari la burocrazia o il desiderio di avere delle scorciatoie prenda il sopravvento, perché negli Stati Uniti, per esempio, lo segnala il New York Times, c'è un problema con la richiesta, che anche lì avviene tramite le banche, di questi aiuti federali, perché pare che anche qui è tutto frutto di denunce di singole esperienze che poi vengono raccontate soprattutto ai giornalisti o magari su internet, che si va in banca, si chiede magari un prestito e le banche offrono anche a chi in realtà non ne avrebbe diritto di fare domanda per gli aiuti federali, no? Abbiamo sentito denunciare anche qui, insomma, esempi di persone che chiedono gli aiuti pur non avendone, o imprese pur non avendone diritto. E l'altro tema è quello della difficoltà ad avere quei sussidi minimi, che negli Stati Uniti sono di circa $1,000, perché è vero che Donald Trump ha spedito questi assegni, ma è anche vero che in realtà, questo lo scrive il Washington Post, ci vorranno fino a 2 settimane per averli, tanto che si stanno mobilitando delle organizzazioni, delle ONG, diciamo. Una di queste si chiama First 100, è stata fondata da un, lo racconto al Washington Post, ma ieri c'erano anche dei servizi alla CNN, che fa avere direttamente $1,000 alle persone che, tra l'altro, alle quali magari è stato rifiutato il sussidio, benché vivano comunque magari già di negli Stati Uniti esistono i food stamps, che sono dei buoni che danno diritto a fare la spesa in alcuni luoghi. Quindi insomma è sempre la burocrazia o comunque il desiderio a volte di voler approfittare in situazioni in cui dovrebbe essere il nostro ultimo pensiero approfittare, però succede anche negli Stati Uniti. Ecco, insomma, di Germania ce n'è una sola, di Germania dove fila tutto liscio, almeno apparentemente ce n'è una sola. Noi ci lamentiamo, e tu adesso ci stavi raccontando della stessa cosa che può accadere anche negli Stati Uniti, della nostra burocrazia che è una particolarmente in questi casi inefficace, anche perché poi i fondi spesso non sono sufficienti, però non è che andando in giro per il mondo siano molti paesi dove le burocrazie sono così efficaci. Ahimè, questa sarà la sfida del terzo millennio. Giulia, invece, notizie meno hard news, però mi segnali un focus del Financial Times su una cosa che tutti hanno nei loro cuori e nelle loro menti in questo momento: come sarà l'estate, come saranno le spiagge? Sì, c'è un disegnino molto divertente, perché noi, almeno io per prima, ho pensato che l'idea del plexiglass in spiaggia fosse un po' così, una sorta di una bufala. Invece? E invece, per esempio, pagina 7 di Financial Times, richiamato in prima pagina, c'è proprio questo disegnino, ne hanno fatti alcuni designer, effettivamente con ombrelloni, sotto ci sono due lettini in questo caso, e ci sono dei divisori, sembra quasi, non so, quei cassettini dove si mettono, non so, gli oggetti, i gioielli. Qui è proprio tutto diviso da questi pannelli di plexiglass, quindi alti 2 metri. L'altra possibilità, sempre raccontata da Financial Times, sì, ma anche questa forse l'avevamo già un po' vista su internet, dei mini bungalow o delle mini capannine, forse questo sarebbe meglio del plexiglass, anche perché chiediamoci, no? Eravamo tu poi, Alessio, te ne sei occupato tantissimo nella trasmissione, quella del weekend, sì. Si può fare, insomma, eravamo inondati dalla plastica, volevamo assolutamente cercare, no, di usarne è una di meno, grande alleata adesso, adesso arriva almeno il plexiglass lo è. Senti Giulia, però a proposito di vacanze, sì, volevo dirti, per tornare anche un po' alla Germania, che c'è un bonus nuovo che ha proposto il ministro della salute Spahn, ed è un bonus per fare una vacanza, naturalmente in Germania si suppone a questo punto, per tutte le persone che hanno lavorato nell'assistenza sanitaria. Però guarda caso la Welt dice subito: sì, ma come lo finanziamo? Quindi c'è subito quello anche che loro, noi chiamiamo coperture. Coperture, bella, bella proposta, caro Spahn, bella promessa, perché questa è stata una promessa per ora, e adesso però ci spieghi come finanziarlo. E poi, visto che i tedeschi non sono, sì, sempre solo rigore, e la Bild, che vabbè, sappiamo è un giornale che, insomma, è un giornale, un tabloid che le spara grosse, diciamo, però racconta in prima pagina la storia di questo signore che si è messo in quarantena in una Baumhaus, cioè una casa sull'albero, e c'è anche la foto, lui si è fatto la sua casetta sull'albero e si è messo lì in quarantena, quindi ognuno, insomma, trova il modo più così, più anche divertente, se vogliamo. Il mio sogno, tra l'altro, avere una casa sull'albero. Giulia, invece, dai giornali francesi mi segnali che si mette a fuoco la questione che assomiglia tanto a un'altra delle bufale che si sono sentite in giro, ma quella dei fumatori che sarebbero meno suscettibili al Covid. Sì, sai, qui c'è il grande tema di come si interpretano i dati, come vengono raccolti, però sia Le Figaro che Le Monde che molti altri giornali mettono in prima pagina questo che viene chiamato lo strano effetto protettore che il tabacco avrebbe contro il virus, il Covid-19, perché si è riscontrato che appunto i tabagisti, soprattutto quelli, insomma, fumatori importanti, effettivamente, anche se vengono contagiati e se quindi si ammalano di Covid-19, poi o guariscono più in fretta o hanno degli effetti minori. E tutto da indagare, tutto da vedere. Naturalmente mai, credo, un medico consiglierebbe di fumare, perché nell'eventualità arrivasse un altro coronavirus, sarebbe, i fumatori sarebbero meglio protetti. Questo virus si dimostra veramente molto misterioso. E tra l'altro ti segnalo, ma sono sicura che ne avrete anche già parlato anche nei GR, la corsa ai vaccini continua, in sempre la Bild, ma è una notizia comunque confermata anche da altri giornali, sì, da notizia di questo inizio, 200 volontari che inizieranno a fare questi test per questo vaccino messo a punto da un'azienda tedesca. E però c'è molta cautela, ieri abbiamo detto, per quello messo a punto dai ricercatori di Oxford, iniziano oggi i test, ma non se ne parla prima dell'autunno. Qui addirittura si parla dell'inizio del 2021, dovesse andare tutto bene. Abbiamo ancora un paio di minuti, dove ci vuoi portare, Giulia? Ma se vuoi in UK, perché vabbè, da una parte ieri c'è stato quell'atteso di cui avevamo parlato, debutto di una seduta telematica del Parlamento, quindi il Guardian per esempio mette in prima pagina questa foto molto suggestiva, al posto delle persone sedute su queste panchine di cui è fatto la House of Commons ci sono degli schermi e quindi poi viene inquadrato tutto e c'è un'inquadratura generale, così chiunque si colleghi vede l'aula del Parlamento dove appunto ci sono tutti gli schermi. Deve essere stata una cosa tecnologicamente abbastanza complicata, ma insomma ci sono riusciti. E poi invece anche lì, insomma, per cercare un po' di leggerezza, il più piccolo dei bambini del principe, non Harry e Meghan, ma di Kate e William, che si chiama Louis, ha fatto dei giochi con i colori dell'arcobaleno, che ricordano naturalmente quel cartello "andrà tutto bene", che viene usato anche nel Regno Unito, e poi ha messo le sue piccole mani tutte colorate sulle finestre della casa di Cambridge dov'è, e quindi insomma questa foto ha fatto un po' il giro del Regno Unito. E dal chiusurissima... punto di vista invece più serio, sì, no, prego, si prego. Continua questa emergenza. Ne abbiamo parlato, cioè a questo punto il problema sono le persone che hanno altre malattie, quindi rischio per chi ha malattia cardiaca, ha bisogno di controlli, per chi soffre di cancro e ha bisogno di controlli, quindi questo è l'aspetto urgente del ristrutturare la sanità. Ultimissimi secondi, sono proprio davvero pochi, perché mi incuriosisce che anche in Francia c'è un tema di mascherine, di approvvigionamento, quindi anche lì stessi problemi nostri, sì, tutto sommato. Questa fuga in avanti di Macron, che vorrebbe riaprire tutto l'11 maggio, ma naturalmente con l'obbligo di mascherine in moltissime situazioni, e Le Figaro mette in prima pagina la foto di una spedizione che arriva dalla Cina di mascherine, ma non saranno comunque sufficienti, anche le aziende che si sono riconvertite alla produzione di mascherine non potranno. Del resto tu li hai dati più volte, i numeri sono milioni, decine di milioni, sì, di fabbisogno giornaliero, nessuno è pronto. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana. È tutto per oggi, Effetto Giorno con Andrea Roccabella in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento.